вся Христина, а ной сапресса. Sospetto in destra, per però Thank you. felice e quanto piede. Sì, sedi mia fede, in questo giorno per la Svezia beato darti prove novelle. felice, prova questa ne sia. Prende, bramasti la mia figlia in consorte, e tua sarà. Consorte? Che fine lo colpo? Cessi ormai lo stupor, figlia diletta. Non rispondi. Oh, genitor, lascia che io possa dalla sorpresa estrema gli spiriti infrancor. Dimmi, concedi spazio a pensar. Che sento? Dio. Figlia. Signore, me la paga. Tu il vuoi, m'arrendo. Alle tue stanze e levi, e in breve ti dispogni al paterno comando. Protetto sarebbe a tuoi se fiero. Prende, mi segui, o mai scopersi il vero. Thank you. Thank you. Thank you. Vassallo un'empia figlia fecer di me. Tutte le mie speranze se perdei, sventurato, almen voglio vendicar col mio sangue il sangue mio. La coppia rea perir dovrà. Ma ascolta, se ad intera pietare piegar te non possio, la figlia almeno da sì crudele scempio. No, d'ingiustizia allor darei l'esempio. Ti lamenta, signor, che a me promessa fu da te la sua mano. Or la reclamo a te, vedova e madre, essermi può consorte chi no il pote donzella. Ma del tuo sangue l'unico avanzo in lei. Sire, conserva paga i voti miei. Tanto può tua virtute, tu mi rendi la figlia, tu mi ridai la vita, con la pace del cor che era smarrita. Ardito di proporti, io non avrei quanto proponi a me. Sappia l'ingrata, da te qual alma nutri generosa. No, tanto il labbro mio, signor, non osa. Per me le parli il padre. De, pensa frattanto a mitigarle il grave duolo e il pianto. Oh, giusto ciel, respiro, ecco la rea. Padre! Non proseguir, nome si sacro mal ti convien. Già sai qual destino t'aspetta. L'amore a te! Penda da un sol mio cenno la tua vita e quella del tuo Gustavo. Che mio figlio apparno! Pian brevi detti miei, bravi salvarlo. Ma non per me, per il figlio vedete chi ecco e me! Più quel mostro, quel sudito ribelle avrà la morte. A te la stessa pena, traditrice del tuo real onore. A ragion riservava il genitore. Ma un'alma grande, chi poteva pensarlo, prenderà se lo vuoi, se di rimorsi il tuo cuore capace, fate l'onor e al genitor la pace. E patria tanto pro di Scozia il prence. Ed in quel modo? Oggi consorte a lui. Ah, di d'ordo so! Oblia costui. A quel pallone Divide, mi sei, divide. demonio, rammenta, rammenta, che tempo non è d'orgo, io c'è da tener, merce. Sprezzi il mio perdono, ben merdi il mio rigor. oggi nel mio Cristina sventurata, in preda all'ira il re sen va. Questo purtroppo è il segno che la sdegna ogni offerta, e uscir di vita brama lo sposo unita. Oh, mie lusinghe vanne, inutil cura, misere affetti miei, e vederla potrei sul palco infame l'alma esalar. O immagine d'orrore, de tu pietoso cielo apro dell'infelice, apri un navio. O giorno, o infausto giorno! Dunque la principessa, o mio signore, e perfidi il nardire giunse di polpere, tetto ave confine col porto della città, s'impossessaro delle guardate mura. A ripara, signor, tanta sventura. Amico, a te m'affido, anima tu le schiere, corri, volla, puliscirei, vendica, prengi amato i torti miei. Per salvar con la sposa anche Edoardo, vada sì, sare a colpa ogni ritardo. Thank you. Yeah! No. porco e della reggia, ogni recesso, ogni angolo, ogni via, investigamo in vano. Del monarca le tracce dunque nessun ne ha dita, o peggior d'ogni morte in fausta vita. Ma il tumulto rinforza, il periglio s'accresce, arravvivate, amici, il vostro ardir, che se deciso l'eccidio universal, da morte almeno si resista, si pugni e poi si mora, che è un bel morir, tutta la vita onora. Si prori, ma li raccolsi in van. L'immensa piena dei ribelli fu maggior d'ogni sforzo, oppresso ogni valor. Quando improvviso tolto ai ceppi Edoardo, sostenne il forte e ravvivò il codardo. Edoardo alle schiere atlei lorese, per te i pugnio vinse per te. Vero, ma intanto va crescendo da ogni parte il tumulto. Ma non temerlo, mi diverti di suo. Stelle, che intendo? Sì, al tuo bielacciore Io sasti il braccio mio premio qual merdi avrai. Or poi sofferdi guai. Premio qual merdi avrai. Sorgere, va sorgere il piacer. Più sorgere.